10 aprile, senza che ci fosse stato detto o comunicato nulla da parte dell'azienda, è arrivata una lettera di trasferimento di un dipendente dell'ufficio amministrazione da Bologna a Flumeri. Sappiamo anche che ci sarebbero state delle dimissioni presentate dall'ufficio del personale, dalla responsabile dell'ufficio personale, e questo è in palese violazione degli accordi sottoscritti, e fra l'altro avevamo avuto un incontro in regione 2 giorni prima senza nulla che fosse stato comunicato dall'azienda. E in quell'incontro l'azienda ha confermato quanto sottoscritto negli accordi in regione del dicembre del 2024, degli accordi di cassa integrazione e quant'altro, perché nel frattempo anche il magazzino ricambi e i prototipi che nell'accordo si era certificato dovessero restare a Bologna sono stati di fatto portati a Flumeri, e quindi si era la proprietà ci aveva riconfermato che questi sarebbero stati riportati a Bologna. E poi è caduto questo fulmine a ciel sereno. Un fulmine a ciel sereno, infatti, portato in avanti una critica non solo riguardo il trasferimento, ma anche per il modo con cui ne siete venuti a conoscenza. Sì, la guardi, noi viviamo delle situazioni per le quali negli incontri la proprietà, l'azienda ci rassicura rispetto a quanto scritto nei piani, e poi improvvisamente ci cala delle situazioni che di fatto smontano queste certezze che sono state certificate negli accordi. Qual è ora il futuro dei lavoratori della sede di Bologna e quali sono i prossimi passi? Che cosa chiedete ora? Tanto oggi abbiamo organizzato questo sciopero, che speriamo che sia partecipato, e quindi abbiamo chiesto un incontro urgente all'azienda e alla proprietà, se mai ce ne fosse bisogno, perché a questo punto bisogna un attimo che tutti gli attori in causa facciano la loro parte, in primis il governo. Noi ormai è da febbraio che chiediamo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, che ancora latita, perché di fatto poi è il governo che è il garante, diciamo, di tutta questa operazione. Quindi bisogna a questo punto che si acceleri la convocazione di questo incontro al MIMIT, alla presenza anche dell'azienda, in cui facciamo il punto della situazione, nel quale noi richiederemo il rispetto degli accordi.